Diamo il benvenuto al nostro ospite di oggi perché abbiamo l'intervista con Francesco Pellegrini, in arte maestro Pellegrini. Ciao! Ciao! Ciao, ciao a tutti, ciao benvenuto. Ciao amici, ciao. Benvenuto, ciao. Benvenuto. Allora, visto che siamo in tema di copertine di album, la puntata tratta di questo, voglio rompere il ghiaccio proprio con questa domanda. Qual è una copertina che hai nel cuore di qualche artista che ti piace, una delle tue preferite, diciamo? Ma guarda, sicuramente una copertina che mi è rimasta molto impressa è quella del primo album dei Verdena, che si chiamava appunto Bella. Verdena. Bellissima. Sì. Aveva appunto questa piccola bambola africana, un po' voodoo in qualche modo. Vero. E se non sbaglio, tra l'altro, quella bambolina era uno dei giochetti che si trovavano negli ovetti Kinder. Ok, vedi, allora. Se non sbaglio, sarebbe molto Verdena come idea. Infatti. Allora, Francesco, grazie di essere qui. Noi siamo qui per parlare del tuo progetto, perché è vero, tu sei chitarrista degli Zen Circus, però hai anche un progetto tuo musicale. Quindi parlaci un po' di questo progetto, come è nato, e poi parliamo ovviamente di uno dei tuoi ultimi singoli, che è Inattaccabile, che faremo sentire dopo alle nostre ascoltatrici e ascoltatori. Sì, guarda, è semplice, a 33 anni mi sono reso conto che appunto questo lato artistico che prendeva più appunto parte dalla creazione di canzoni non poteva più restare in un cassetto. Io per troppo tempo ho tenuto le parole appunto chiuse dentro a un cassetto e ho deciso appunto di dar voce a questo mio lato, che ancora era stato tenuto un po' nascosto, diciamo, al pubblico. E così in un paio d'anni ho tirato giù queste 9 canzoni che poi ho prodotto insieme ad Andrea Pachetti e sono molto soddisfatto del lavoro. Finalmente è pronto, il disco sarà disponibile nei negozi dal 30 ottobre. Sì, abbiamo visto che appunto in questo 2020 tu hai fatto uscire 2 EP separati, ciascuno contenente 4 canzoni, e poi ovviamente ci sarà un album che li comprenderà entrambi. Come mai questa scelta? Guarda, è stata dettata dall'emergenza sanitaria, perché il disco doveva uscire l'8 maggio, soltanto che in quel periodo non era neanche possibile stamparlo. E allora con Black Candy Produzioni appunto abbiamo deciso intanto di far ascoltare la musica. Mi sembrava comunque giusto dar comunque il mio contributo a quella che era una situazione di emergenza. Ho dato l'unica cosa che potevo dare, cioè la mia musica, e l'ho messa a disposizione un po' degli altri, consapevole che comunque appunto poi il disco si sarebbe potuto stampare dopo un bel po' di tempo, però ci tenevo a fare comunque ascoltare le canzoni. Senti, prima di parlare di Inattaccabile, e mi riallaccio a questo tema dell'emergenza sanitaria, e insomma, cosa ne pensi della situazione attuale? Come vedi il futuro di musica, teatro, insomma della cultura in generale, soprattutto in questo periodo? Ma guarda, fare cultura e musica non è mai stato facile, sicuramente in Italia, io l'ho sempre fatta qua, non so come funzioni da altre parti, e niente, questa è stata sicuramente è stato un colpo veramente duro sia per il nostro ambiente che comunque anche per altre situazioni. Sicuramente nel nostro mondo appunto una situazione del genere condizionerà molto quello che sarà il lavoro non solo di quest'anno ma anche dei prossimi anni, e questo è un dato di fatto. Quindi forse dobbiamo renderci conto che l'aiuto non basta se si pensa soltanto a una mensilità o a un trimestre, perché appunto ci vorranno anni per riprendersi da quello che è stato un colpo fortissimo e continua a esserlo in qualche modo, insomma. Sì, sicuramente. Tra l'altro leggo alcuni dati, in questo anche per gli ascoltatori e le ascoltatrici, e adesso va molto questa immagine dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, che scrive: il periodo dal 15 giugno al 10 ottobre, 2.782 spettacoli, 347.262 spettatori contagiati, uno. Sì, esatto. La cosa che fa un po' arrabbiare, che lascia un po' amareggiati, che comunque si era cercato di regolarizzare appunto gli spettacoli adattandosi alle nuove normative, giustissime peraltro, certo. appunto l'emergenza. Questa nuova decisione ci ha lasciato sicuramente spiazzati, almeno a me personalmente. Io stesso ho perso 6 concerti e una serie di presentazioni del disco, insomma tutte cose che avevamo riprogrammato coraggiosamente secondo me, e che invece sono state improvvisamente di nuovo annullate con data da riprogrammare quando sarà possibile, se sarà possibile, in locali che magari non riapriranno neanche. Sì. Certo, perché c'è da dire che appunto ci si è attrezzati, no? per la sicurezza, quindi si è speso dei soldi, ci sono state tutte delle manovre insomma sì. importanti, e poi vedersi chiusi i locali, i teatri, i cinema, i concerti, cioè soprattutto la musica, no? Sì, sì. Queste cose che ci riempiono di vita, intensificano la nostra vita. Proprio. Sottolinea come ingiustamente la cultura sia sacrificabile, come se fosse semplicemente un hobby, e ovviamente no, perché c'è tantissimo lavoro dietro. Sì, guarda, io spero sinceramente che appunto la che comunque non sia questa la percezione di chi governa, perché sarebbe veramente gravissimo, e quindi spero semplicemente che in una situazione così confusa in qualche modo si sia presa una scelta, magari anche un po' appunto sottovalutando le conseguenze, magari soprattutto per il nostro settore, ecco, in questo caso, ma anche per altri. Semplicemente credo ci sia molta confusione in questo momento. Sì. Parliamo invece, ecco, del tuo brano, concentriamoci su questo, che poi in realtà di brani appunto ne sono già usciti, ma ci vogliamo concentrare sull'ultimo singolo estratto, che è Inattaccabile, uscito il 16 ottobre, tratto dall'EP Fragile volume 2, e so che parla, è rivolto a tua sorella. Esattamente. Nel disco ci sono 9 canzoni, mi sono fermato a 9 per non superare le sinfonie di Beethoven, come si faceva nell'Ottocento. No, è vero, l'ho fatto ironicamente, ma è vero. Ogni canzone parla di un momento della mia vita e appunto anche delle emozioni delle persone che sono collegate a quel momento, a quella situazione. E Inattaccabile affronta l'argomento innanzitutto della distanza, quindi racconta di due fratelli che hanno passato un'infanzia simbiotica in qualche modo, che li ha visti appunto aiutarsi soprattutto nei momenti di difficoltà che hanno un po' tutte le famiglie, la separazione dei genitori eccetera, e che poi improvvisamente si trovano distanti migliaia di chilometri perché uno dei due decide appunto di andare a studiare all'estero e poi rimane all'estero perché appunto continua e riesce a lavorare, magari in Italia non sarebbe riuscito a farlo, e quindi rimane poi all'estero, e dopo tanti anni allora io mi domando dove sta andando questa relazione. La racconto in qualche modo, racconto prima appunto i ricordi che abbiamo dell'infanzia mia e di Chiara Pellegrini, che è mia sorella, peraltro è una cantante anche lei, adesso vive a Lisbona, e niente, poi nel ritornello cerco un po' di analizzarla, di raccontare il suo carattere e soprattutto di raccontarle un po' il dispiacere comunque di non averla qua, comunque più vicina, e quindi in qualche modo più vicina geograficamente, più raggiungibile. Ovviamente poi nel videoclip soprattutto affronto comunque faccio una riflessione su quanto poi la distanza fisica in sé non cambi quello che si è costruito in tanti anni di infanzia vissuta gomito a gomito, e quindi quanto poi a volte le abitudini e gli obiettivi, anche il modo di vivere, la quotidianità, poi si somigli comunque anche dopo tanti anni di distanza. Certo. Bellissimo. Io direi che lo andiamo ad ascoltare adesso. Possiamo andarci ad ascoltare Inattaccabile. Prima ovviamente vogliamo salutarti e farti un in bocca al lupo per questo tuo progetto, e anche, non dimentichiamolo, per il tuo progetto con gli Zen Circus, perché sappiamo che uscirà anche un album sì. a breve. Assolutamente. E quindi grazie di essere stato ospite ai nostri microfoni. Grazie mille. Maestro grazie, Pellegrini. Grazie a voi, amici. Questa è Inattaccabile. Da non credere, allora c'è una fine. Dentro alle tue voglie, in fondo al mio cortile, nelle lucciole che avevi sulla schiena, ai miei stivali rotti, a cosa vuoi per cena? A tutte quelle volte che mi hai lasciato andare, per poi sorridere, non t'arrabbiare. Addio che non so dire se il cielo può cambiare ai miei occhi rossi e a te che sei inattaccabile con i tuoi difetti che sanno solo gli amici più stretti. Cerco un sorriso dentro una bottiglia, scaglio una freccia, nasce una famiglia. Se cade un fiore poi chi lo raccoglie? Ti ho visto uscire insieme alle tue voglie, al mio silenzio ormai così sottile che ci vedevi una fragilità. Ti mi sei andata con lo stesso treno, non hai mai provato un bacio col veleno. Se chiudo gli occhi lo riesco a sentire e non mi dire che poi si vedrà. Qualche canzone da dimenticare, lo sai che le api ballano a sospese, e forse quella è la felicità. Siamo deboli come le regole, siamo fragili come le lacrime, siamo unici come i tuoi demoni, siamo piccoli come i miei lividi, siamo soli dentro ai nostri simili, di cui hai paura come le cimici. Ti tuffi in mare per poi respirare, e tu che nuoti io che imparo a camminare. Inattaccabile coi tuoi difetti che sanno solo gli amici più stretti. Cerco un sorriso dentro una bottiglia, scaglio una freccia, nasce una famiglia. Se cade un fiore poi chi lo raccoglie? Ti ho visto uscire insieme alle tue voci.